sabato praticamente eravamo nelle piazze di 25 città italiane per denunciare quelli che sono gli impatti degli allevamenti intensivi e come questi allevamenti alla fine vengono finanziati anche con i soldi pubblici attraverso la PAC, la politica agricola comune. In sostanza abbiamo creato delle sorte di ristoranti con un menù alternativo per rappresentare appunto e far conoscere alle persone quelli che sono gli impatti principali di queste fabbriche di carne. Ti faccio degli esempi, quindi insalata di nitrati, zuppa di liquami, cocktail di antibiotici e pesticidi, per far vedere quindi anche il tipo di allevamento e agricoltura industriale che è legato a questo sistema. Lo stiamo facendo in questi giorni perché martedì 2 aprile ci sarà un voto importante da parte della Commissione Agricoltura Europea che andrà a votare sugli emendamenti alla proposta per la nuova PAC fatta dalla Commissione Europea. Nuova PAC che entrerà in vigore dal 2021 e che quindi continuerà a dare una forma o un'altra a seconda degli emendamenti e del tipo di scelta politica che verranno fatte all'agricoltura e all'allevamento di tutta Europa. Appunto, ti chiederei proprio anche intanto se ci sono probabilità, diciamo, che questa nuova PAC possa effettivamente cambiare il percorso che si è tenuto finora in Europa e quali sarebbero le misure importanti da prendere. Diciamo, il passaggio positivo rispetto al progresso è che questo percorso di riforma per la prima volta anche la Commissione Ambiente è stata interessata e nel voto di febbraio ha votato degli emendamenti che danno una direzione di sostenibilità a questo pacchetto di politiche. Ovviamente la partita è complessa perché gli interessi in cambio ovviamente sono moltissimi, sono molto forti e appunto la PAC degli ultimi decenni in realtà ha dato una forma, diciamo così, sempre più intensiva e industriale di tutto il comparto agricolo. Basta andare a vedere il numero delle aziende agricole che si va a vedere che il numero è drasticamente crollato a favore invece di un'intensificazione, quindi sempre minore aziende, sempre più grandi. Questo è un po' lo scenario, con le aziende invece di piccole dimensioni, medio piccole dimensioni, che sono spesso anche le più sostenibili, che invece vanno a chiudere. Quello che viene fatto come prima richiesta agli europarlamentari e quindi in generale alle forze politiche europee e dei governi nazionali è quello di tagliare i fondi agli allevamenti intensivi invece di utilizzarli per una transizione, quindi aiutare agricoltori e allevatori a una transizione verso un'agricoltura e un allevamento che siano effettivamente ecologici e sostenibili, perché così non possiamo più andare avanti. E voi vi siete concentrati particolarmente, diciamo, sul tema dell'industria delle carni perché è, diciamo, più negativa sul fronte ambientale rispetto all'agricoltura? Sì, diciamo che l'agricoltura in generale ovviamente ha un impatto e subisce quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici. In generale quello che è il comparto della carne e dei prodotti animali in generale intensivi sono quelli con gli impatti maggiori dal punto di vista di emissioni di gas serra, dal punto di vista di inquinamento di acqua, suolo, aria, sono, diciamo così, è il comparto che è più problematico e sul quale bisogna intervenire con più rapidità. Proprio nella direzione di richiedere un cambiamento, appunto, voi avete lanciato anche una petizione. Sì, esatto, all'indirizzo ilpianetanelpiatto.greenpeace.it è possibile, per chi è interessato, firmare questa petizione dove appunto chiediamo il taglio dei finanziamenti, dei fondi pubblici e gli allevamenti intensivi, di utilizzarli per finanziare la transizione verso e per sostenere le aziende ecologiche e comunque di andare verso politiche che vadano a disincentivare l'eccessivo consumo di carne che adesso avviene a livello europeo. Consideriamo che solo a livello italiano abbiamo una media di circa 79-80 kg di carne pro capite, che è, oltre a essere non salutare di per sé come quantitativo per la persona che ne consuma, ma ha delle conseguenze diciamo disastrose per l'ambiente in generale. Ecco, che dipende anche un po', e poi è il tema che citate anche all'interno della petizione, da quello che è il prezzo della carne, nel senso che poi c'è un prezzo, diciamo, economico e un prezzo reale che poi ha ripercussioni anche ambientali, ma anche appunto nella qualità della vita, sulle persone che lavorano in quel settore, insomma un prezzo che poi alla fine si paga. Sì, diciamo, noi l'abbiamo un po' chiamato il costo nascosto della carne, perché questi prodotti arrivano sugli scaffali nei negozi a un prezzo che non è assolutamente quello reale, molto basso, e questo, diciamo così, per permettere questo costo così basso in realtà ce n'è una grossa frazione che non vediamo direttamente ma che paghiamo tutti come collettività, perché appunto è poi l'inquinamento dell'ambiente dove viviamo e dove dobbiamo produrre il nostro cibo. Pensando agli allevamenti intensivi, faccio un esempio solamente, l'eccessivo utilizzo di antibiotici per mantenere attivi queste situazioni che naturali non sono e quindi altrimenti non potrebbero farcela, implica anche una dispersione di questi residui in ambiente attraverso i liquami e quindi anche, diciamo così, è uno degli aspetti che va a incentivare l'antibiotico resistenza. L'emissione di ammoniaca dovuta appunto allo spargimento, ai liquami, ai rifiuti di questi grossi comparti, che comunque è una voce importante, diciamo la gran parte dell'ammoniaca che viene diffusa in ambiente arriva dall'agricoltura e di questo la parte principale dell'allevamento. È un gas, ad esempio, se pensiamo alla pianura padana, uno di quelli che va a poi anche influire sull'aumento delle polveri fini, no? Il cosiddetto particolato che siamo più abituati a conoscere come fenomeno associato alle domeniche dove non si può utilizzare la macchina, ma che in realtà anche il comparto agricolo è una grossa componente.